America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Memorial Plaza, il 15° anniversario dell'attacco all'America dell'11 settembre, la cerimonia struggente ieri a New York e in altre parti d'America, la lettura dei nomi dei caduti, quasi 3.000 in quell'orrenda giornata, e una tregua politica fra Hillary Clinton e Donald Trump proprio per rispettare le vittime. Entrambi, tra l'altro, ieri mattina erano all'avvio di questa cerimonia. Ma la politica, che doveva restare fuori in questo anno elettorale pazzesco, ha finito con l'entrare lo stesso nelle cronache. Proprio al Memorial Plaza, durante la cerimonia, Hillary Clinton a un certo punto ha avuto un momento di malore. Gli agenti segreti hanno dovuto sostenerla per portarla in macchina. A un certo punto sembrava quasi che fosse addirittura caduta, e a quel punto, i sospetti sulle sue condizioni di salute, le insinuazioni di Donald Trump sul fatto che ci nasconde qualcosa, hanno dato improvvisamente corpo a quella che sarebbe diventata la notizia della giornata. Appunto, quello di Hillary Clinton non era solo malore o disidratazione per il caldo afoso, ma il suo dottore ha confermato che ha la polmonite. Insomma, come sappiamo, la polmonite è una cosa seria. La convalescenza può durare anche 2 o 3 settimane, e il 26 settembre, e se facciamo i conti i tempi sono molto stretti, c'è già il primo dibattito presidenziale qui a New York, alla Hofstra University. Trump, devo dire, è sornione, non ha fatto dichiarazioni, ma la faccenda potrebbe essere seria. C'è già chi dice che i problemi di Hillary potrebbero essere molto più gravi, anche perché nel 2012 era caduta, aveva subito una concussione che le aveva lasciato un embolo, da lì le paure, le incertezze sulle sue condizioni di salute. La sua cartella medica non è stata ancora rilasciata, forse oggi dovrà essere costretta a farlo. Ce la farà? Possibile che il vicepresidente Joe Biden torni a scaldarsi i muscoli per sostituirla? Insomma, questi saranno i temi caldi in America nella giornata di oggi. Ma torniamo a ieri, torniamo alle celebrazioni dell'11 settembre. Ce ne sono state, come dicevo, molte altre in America. Nella notte è partito il doppio fascio di luce per ricordare ciascuna delle torri. Al Pentagono ha parlato Barack Obama, ha ricordato le vittime. Poi un riferimento storico-politico con doppio significato, esterno ed interno. Sentiamo intanto quello esterno. Groups like Al-Qaeda, like ISIL, they will never be able to defeat a nation as great and as strong as America. E abbiamo sentito Obama che dice: gruppi come Al-Qaeda, come ISIL, sanno che non saranno mai in grado di sconfiggere una nazione grande e forte come l'America, e dunque hanno cercato invece di terrorizzarci nella speranza di trasmetterci paura, nella speranza di costringerci a cambiare il modo in cui noi viviamo. Ebbene, ha detto Obama, non solo questo non succederà, ma saranno sconfitti. Ecco, sentiamo poi la parte interna, che secondo me è ancora più interessante. It is so important today that we reaffirm our character as a nation. People drawn from every corner of the world, every color, every religion, every background. Ecco qui Barack Obama dice: nel continuare la lotta contro l'ISIS è molto importante e fondamentale riaffermare il nostro carattere come nazione, una nazione formata da genti che sono arrivati da ogni angolo del mondo, da ogni colore, da ogni religione, da ogni background, unite soltanto da un'unica verità antica come quella della nostra fondazione, il messaggio di essere in molti ma in un'unica nazione. E poi Obama ha continuato: la nostra diversità è una forza, non è una debolezza. Se vogliamo continuare a essere questo tipo di nazione, dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori. Questo è un messaggio chiaramente diretto a Trump, che vuole invece cambiare i valori di fondo degli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più nei più difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, la giornata di ieri è stata di grande emozione. La copertina di questa settimana la dedico all'America, la dedico ai caduti dell'attacco dell'11 settembre in questo 15° anniversario. E dunque lasciatemi scegliere un classico, secondo me, adatto per l'occasione, di John Baez, We Shall Overcome. Supereremo le difficoltà. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!